24, il sole 4 ore. In Egitto sospesa l'attività del Parlamento, la folla torna in piazza, aumenta il pressing americano su Mubarak. La crisi taglia il reddito degli italiani. Secondo l'Istat nel 2009 c'è stato il primo calo dal 95. Napolitano, non entro nella polemica politica, penso alle istituzioni. Domani il voto sul federalismo, oggi vertice con Futuro e Libertà. Scoperto il primo sistema solare con 6 piccoli pianeti simili alla Terra. Buongiorno da Alessio Maurizi, benvenuti a questa edizione di GR24. In apertura in Egitto, dove mentre la folla ha ripreso ad affluire in piazza Tahrir al Cairo, la TV di Stato fa sapere che l'attività del Parlamento resta sospesa in attesa delle decisioni dei tribunali sui ricorsi per quanto riguarda le scorse elezioni legislative che sono contestate dall'opposizione. In piazza oggi anche manifestanti pro Mubarak, mentre sale il pressing dagli Stati Uniti proprio sul presidente egiziano, che fino ad ora ha annunciato di non volersi ricandidare ma non di lasciare il potere. Andiamo al Cairo con l'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri, buongiorno. Buongiorno a voi. Dunque oggi piazze contrapposte. Piazze contrapposte, sono qua tutti davanti a me, li sto guardando, sono arrivati migliaia e migliaia di sostenitori di Mubarak. Prima si erano radunati davanti alla TV di Stato, hanno fatto circa 800 metri e un corteo di almeno 10.000 persone è stato, ha defluito verso la piazza, ha fatto quasi irruzione dentro la piazza, costringendo i manifestanti contro Mubarak a stare dal lato destro. Praticamente sono soltanto divisi da un'aiuola circolare, da una grande aiuola circolare di piazza Tahrir. Per il momento non ci sono scontri, ma è chiaro che oggi c'è qualcosa di nuovo, cioè il regime sta cercando in qualche modo di aprire la battaglia delle piazze, di dimostrare che Mubarak ha ancora un sostegno popolare. Grazie Alberto Negri, per ora l'inviato del Sole 24 Ore al Cairo. E in queste ore uno dei timori è che dietro il crollo, quando ci sarà, del regime di Mubarak, un regime laico fino ad oggi, possa esserci una ripresa dell'integralismo islamico. Allora anche a questo proposito sentiamo il racconto di queste ore, come vengono vissute al Cairo, nella testimonianza di del padre comboniano Luciano Verdoscia. La gente protesta prima di tutto per l'abuso di potere. Noi abbiamo avuto un reparto della polizia, che è il reparto di Amne Daula, così chiamata, cioè della polizia segreta, che ha angariato un po' su tutti. La gente reagisce perché la maggior parte della popolazione non ha avuto occasioni. Il sistema scolastico è un vero e proprio fallimento e non tutti hanno diritto all'assistenza sanitaria. La povertà aumenta, il divario tra ricchissimi e poveri anche in questi anni aumenta. E poi anche c'è la corruzione. Qui in Egitto noi abbiamo assistito in questi 30 anni a un crescendo di corruzione, c'è una doppia economia, un'economia ufficiale e quella ufficiosa. Ci sono ripercussioni per voi cristiani? Ho sentito che c'è stato uno dall'Iraq che ha detto che stanno avvenendo nell'Alto Egitto delle vendette, ma noi qui non abbiamo sentito niente. Noi come cristiani abbiamo un timore, il timore, cioè l'incognito ci spaventa, il timore che il dopo Mubarak possa segnare un inizio di uno Stato fondamentalista è un'ipotesi possibile. Le altre possibilità sono che personalità come il Baradei possano aiutare il passaggio da Mubarak ad un governo post Mubarak segnato dalla democrazia. La democrazia è uno degli elementi richiesti da questa rivoluzione. Questa dunque è la situazione in Egitto. Adesso invece veniamo in Italia e cominciamo con la giornata politica, perché domani sarà una giornata cruciale per quanto riguarda il voto atteso sul federalismo. Oggi c'è stato un vertice a Palazzo Grazioli, coinvolto anche Futuro e Libertà, che al momento è all'opposizione, potrebbe rappresentare una spina nel fianco dal punto di vista politico per il voto di domani. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Ultime mediazioni dunque tra le forze politiche in vista del voto di domani. Questa mattina incontro a tre a Palazzo Grazioli tra il Presidente del Consiglio Berlusconi, il Ministro per la semplificazione normativa Calderoli e l'esponente di Future Libertà nella bicamerale Mario Baldassarri. La posizione dei finiani, lo ricordiamo, è determinante per l'esito del voto che al momento vede una perfetta parità tra maggioranza ed opposizione. Il Presidente della bicamerale La Loggia ha comunque spiegato che anche in questo caso la legge prevede che il Governo possa comunque varare il decreto sul fisco municipale. Una sferzata all'economia è indispensabile, ha ricordato La Loggia, e una parte di questa sferzata è all'interno del federalismo comunale. Si prevedono solo più tasse e danni agli enti locali, hanno ribadito però stamani Terzo Polo e Centrosinistra. Il testo nelle ultime ore è stato comunque rivisto dall'esecutivo, è stato istituito il fondo perequativo che in base alla legge delega servirà a garantire i livelli essenziali dei servizi. Il fondo, che entrerà in vigore dal 2014, sarà alimentato dal gettito delle imposte devolute per il 30% ai comuni. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. Altro fronte politico aperto è quello che riguarda il caso Ruby, in vista anche qua il voto parlamentare sull'autorizzazione richiesta dai giudici milanesi. Elisabetta Fiorito. Sì, a 24 ore dal voto alla Camera sull'autorizzazione a procedere per il caso Ruby si prepara poi la manifestazione del 13 febbraio davanti al Palazzo di Giustizia di Milano per la pari dignità delle donne. Annunciano di aderire anche Michele Santoro, Barbara Spinelli e Marco Travaglio, una mobilitazione in vista delle elezioni, convinti da anno zero che è ora che in Italia sorga un movimento di legittima difesa dei principi costituzionali. Tutto ciò mentre nell'inchiesta dei PM milanesi spunterebbe anche un bonifico di 20.000 euro da parte di Silvio Berlusconi con la madre di Noemi Letizia, la giovane di Casoria famosa per la festa dei 18 anni alla quale partecipò il Premier. Il versamento, che non ha nulla a che vedere con le imputazioni formulate per il caso Rubi, risale all'anno scorso. Per quanto riguarda poi la ragazza marocchina, Rubi annuncia di volersi sposare in comune fra 3 settimane e a giugno in chiesa. Assicura che si tratta di una scelta d'amore e non di interesse, e poi per Rubi il Premier va con le ragazze perché si sente solo. Sul fronte parlamentare, da segnalare l'ingorgo per le votazioni di domani. La bicamerale dovrebbe licenziare il testo sul federalismo fiscale, mentre i deputati dovrebbero essere contemporaneamente in aula a discutere del caso Ruby. Il PDL sarebbe infuriato con il presidente della Camera Gianfranco Fini e il voto sul federalismo potrebbe essere anticipato nella mattinata, nel pomeriggio invece quello su Ruby. E per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. Grazie anche a Elisabetta Fiorito. E oggi sul quadro politico istituzionale è intervenuto anche Napolitano con un nuovo, verrebbe da dire, accorato appello alla politica a superare le insostenibili contrapposizioni. L'inviato del Sole 24 Ore, Dino Pesole. Giorgio Napolitano è a Bergamo, e Bergamo è la città dei mille che, come ha ricordato il sindaco Franco Tentorio, vide nel 1860 almeno 180 bergamaschi salpare da Quarto per la Sicilia rispondendo al proclama di Garibaldi, una città che ha accolto Napolitano rivestita di tricolore. Nessun accenno di protesta da parte della Lega, come pure si era paventato nei giorni scorsi. Napolitano è stato accolto con un'ovazione nel teatro Donizetti. Nel tricolore, ha detto, possiamo riconoscerci tutti, anche senza che questo richieda di rinunciare alle nostre convinzioni. Poi il nuovo richiamo che va diritto al cuore della complessa e agitata temperie politica nazionale. Per portare avanti riforme che sono all'ordine del giorno, e mi rivolgo a quanti sollecitano in particolare decisioni annunciate in nome del federalismo e ormai giunte a buon punto, è stato decisivo e resta oggi decisivo un clima di corretto e costruttivo confronto in sede istituzionale. Si esca dunque da un aspirabile insostenibile di contrapposizioni, arroccamenti e prove di forza da cui può soltanto riuscire gravemente ostacolato qualsiasi processo di riforma. Un esempio viene proprio dalle realtà locali, dice Napolitano, in cui si confrontano posizioni diverse in uno sforzo, dice, di dialettica unitaria. Da Bergamo è tutto, vi restituisco la linea. E ora la pagina economica, cominciamo dal quadro internazionale. L'agenzia di rating Standard & Poor's taglia il rating dell'Irlanda dal gradino A- al gradino A, confermando il credit watch negativo, l'ha riferito la stessa agenzia. In una nota l'agenzia di Standard & Poor's che spiega il taglio rispecchia la revisione del settore bancario irlandese. La giornata economica che per quanto riguarda l'Italia invece vede l'analisi dell'Istat sul reddito delle famiglie italiane in calo nel 2009 ed è la prima volta dal 95. Nel 2009 le famiglie italiane si sono davvero impoverite. Questa volta non è una sensazione, ma è l'Istat a certificarlo. In un anno il reddito delle famiglie non solo è stato eroso dall'inflazione, ma è proprio diminuito del 2,7% rispetto al 2008. È il primo segno negativo dal 1995. Il fenomeno è stato più acuto nel nord industrializzato, mentre i nuclei familiari del centro e del sud hanno risentito un po' meno della riduzione del reddito. Le flessioni più sensibili hanno riguardato Lombardia e Piemonte. C'è da dire però che complessivamente il reddito rimane concentrato per oltre la metà nelle regioni del nord. La più elevata disponibilità per abitante è stata registrata a Bolzano. Rimane significativo il distacco del Mezzogiorno. Nicola Filippone da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E fa discutere all'Aquila l'ipotesi di realizzare un parcheggio nell'area dove sorgeva la casa dello studente. Ricorderete, uno dei simboli del terremoto del 6 aprile del 2009. Nel crollo della casa dello studente morirono il custode e 8 studenti. Secondo il progetto del commissario dell'azienda per il diritto agli studi, Francesco Dascanio, il parcheggio sorgerebbe sotto la piazza memoriale in ricordo delle vittime. Quella terra è sacra, non si tocca, dicono invece i familiari e anche il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente. Frena, deciderà il comune, ha detto poco fa, lo ha intervistato Maria Luisa Pezzali. Sì, ci verrà una piazza, adesso discuteremo, ma il comune dell'Aquila non ha preso ancora nessun provvedimento, fra l'altro un'area tuttora sotto sequestro giudiziario. Perché Ascanio dice che ne ha già parlato con Gianni Chiodi. Ah, se Gianni Chiodi vuole fare il sindaco dell'Aquila, si dimette da presidente della regione e viene a fare il sindaco dell'Aquila. Queste cose le decide il comune dell'Aquila. Di che parliamo? Può parlare di fare la piazza, cioè può dire non ricostruiamo lì, benissimo, mi facilita il compito, ma che cosa va là sopra lo decide il comune, non lo decide nessun altro. Io sul fatto che quella diventi una piazza, adesso è un luogo di pellegrinaggio, quindi è chiaro che quello resterà un posto con una certa sacralità, d'accordo? Ora che un signore dice sotto facciamoci un parcheggio, non capisco a che titolo. Così dunque il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente. Adesso invece parliamo di sport e di un grande campione, l'australiano Ian Thorpe, che dopo 4 anni di stop torna in vasca. It hasn't been something that I've taken lightly in making a decision to return to competitive swimming. Il ritorno della torpedine, il titolo del colossal del nuoto mondiale in vista delle Olimpiadi di Londra 2012 è già pronto, perché lui, Ian Thorpe, la torpedine appunto, 28 anni, sui blocchi di partenza a Londra ci sarà. Torna a tuffarsi il fenomenale australiano, 11 ori mondiali e 5 olimpici al collo. Troppo forte il richiamo di vasca e cloro, troppo grande il desiderio di ritrovarsi fianco a fianco in corsia contro l'eroe di Pechino 2008, l'americano Michael Phelps. A 16 anni Thorpe fu il trionfatore di Sydney. Ora, alla soglia della trentina, dopo 4 anni di stop, le accuse infondate di doping e le voci mai smentite sulla presunta omosessualità, il canguro si rituffa in vasca col suo fenomenale 51 di piede. Non più sugli amati 400 stile libero però, ma sui 100 e 200, distanze più congeniali per un vecchietto, si fa per dire, come lui. E all'idea del nuovo duello tra la torpedine e lo squalo di Baltimora, la piscina olimpica di Londra già ribolle. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13 e 16 minuti, GR24, ben ritrovati. Nella prima parte abbiamo parlato dell'Egitto, sospesa l'attività del Parlamento, la folla torna in piazza mentre aumenta il pressing americano su Mubarak. E poi abbiamo parlato della crisi che taglia il reddito degli italiani. Secondo l'Istat nel 2009 c'è stato il primo calo dal 1995. Per la politica l'appello di Napolitano alle parti a superare le insostenibili contrapposizioni. Adesso le altre notizie. A cominciare da una importante scoperta scientifica che potrebbe aprire, lo capiremo tra un attimo, prospettive inedite per quanto riguarda i pianeti attorno alla Terra. Gigi Donelli, di che si tratta? Sì, Alessio, buongiorno. Dunque, i pianeti extrasolari, questo è il tema, quindi i nostri vicini all'interno del Sistema Solare li conosciamo, li abbiamo studiato da anni. La notizia che attendiamo per questa sera alle 7 italiane dalla NASA riguarda invece scoperte di pianeti extrasolari, cioè di altri sistemi solari che abbiano caratteristiche di vivibilità. Mi spiego, 15 anni fa è stato scoperto il primo pianeta extrasolare, prima si immaginava, ma nessuno l'aveva mai visto. 15 anni fa il primo è stato visto. Poi è diventata una vera ossessione, cioè trovare Pandora, trovare il luogo dove la vita è possibile. All'inizio si sono visti dei giganti gassosi, enormi ma del tutto inutili, tipo Giove, un luogo inadatto alla vita per come la conosciamo. Insomma, l'esplorazione è cresciuta e lo scorso anno, anzi 18 mesi fa, è stato inviato in orbita un osservatore di nome Keplero, dal grande astronomo, che ha avuto il compito specifico di cercare questo tipo di pianeta. Bene, ha cominciato a farlo in un modo formidabile, al di là delle aspettative sta analizzando migliaia di stelle, uno spicchio piccolissimo del cosmo ma enorme per la ricerca, e ne sta trovando centinaia. Alle 7 di stasera la NASA annuncerà la scoperta appunto di un sistema solare all'interno del quale sembra ci siano più di un cosiddetta superterra, cioè quei pianeti. Superterra è un termine nuovo, inventato qualche anno fa, un pianeta con caratteristiche simili alla Terra. E naturalmente questa è una notizia che tutti aspettavano in qualche modo, ma vedremo poi di che cosa si tratterà nel dettaglio. Già che siamo in argomento, Gigi Donelli, ci sono novità dal nostro astronauta, l'italiano Nespoli, che è in orbita ormai da alcune settimane, Gigi. Assolutamente, Nespoli oggi assieme al suo equipaggio, lo ricordiamo, Paolo Nespoli è il primo italiano che compie una missione di lunga durata per conto dell'Agenzia Spaziale Europea, ha ricordato 8 anni fa il disastro dello Shuttle Columbia. Lo ha fatto con una serie di comunicazioni attraverso Twitter, sistema che ormai gli astronauti utilizzano in maniera ordinaria, e ricordando naturalmente i suoi amici, compagni di esploratori del Columbia, quelli del Challenger, insomma questo grande numero di ricercatori, di astronauti, di esploratori che hanno perso la vita negli ultimi anni. Grazie a Gigi Donelli in studio con noi. Adesso andiamo negli Stati Uniti, dove una tempesta di neve sta mettendo a dura prova le comunicazioni del paese, non solo. Stati Uniti è ancora in ginocchio per il maltempo. A poco più di un mese dalla bufera che ha sommerso Washington e New York, una tempesta di neve accompagnata da grandine e venti paralizza tutto il nord-est degli Stati Uniti. Highlighting all the present blizzard warnings, which we actually show. Il servizio meteo parla di bufera pericolosa e indica come comportarsi. Secondo quanto riportato dal sito di informazioni per i viaggiatori FlightAware, la neve ha causato l'annullamento di circa 4.000 voli in tutto il paese e di gran parte degli scali occidentali. Accusato di non aver saputo fronteggiare l'emergenza a dicembre, il sindaco di New York, Michael Bloomberg, rassicura la popolazione. Abbiamo avuto il peggior gennaio della storia di New York, ma non c'è motivo di panico. Stiamo facendo esattamente quello che c'è da fare. L'area interessata si estende dal Colorado alla regione dei Grandi Laghi, in allerta più di 25 stati, dal North Dakota al Texas al New Mexico. A Chicago si aspetta la peggior tempesta degli ultimi 50 anni e una temperatura che scenderà sotto i meno 20 gradi centigradi. Si teme che il vento possa abbattere alberi e pali della luce e le autorità consigliano alla popolazione di non uscire di casa. Vanessa Quinto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo in Italia. Si è aperto questa mattina davanti alla Corte d'Assise di Trapani il processo per l'uccisione di Mauro Rostagno, avvenuto il 26 settembre 1988. Gli imputati sono il boss trapanese Vincenzo Virga, indicato come mandante dell'agguato, e il presunto killer Vito Mazzara. Prima dell'apertura dell'udienza si è svolto un corteo con alcune centinaia di persone che hanno raggiunto l'aula bunker del Palazzo di Giustizia, tra loro la figlia di Mauro, Maddalena Rostagno. Dopo 22 anni entriamo in un'aula di processo. Degli inquirenti per bene sono riusciti, nonostante questo travagliatissimo iter, a ottenere un rinvio a giudizio con delle prove concrete rispetto a due imputati. Adesso inizia un processo, è l'unica possibilità che avremo per rendere un po' di giustizia a Mauro. Ne avevamo parlato anche ieri, l'invio telematico dei certificati medici di malattia. Qualche problema c'è stato anche questa mattina per la rete di invio telematico, appunto, dei certificati medici. Il ministro Brunetta è tornato però a rassicurare i camici bianchi: ci saranno sanzioni solo se il medico si rifiuterà di farlo. La rete, dice il ministro, funziona. Sentiamo. Oggi siamo circa 80-90 mila, alle 11 di mattina. Giorno dopo giorno daremo i risultati e diremo anche se ci sono stati dei problemi di carattere tecnico e dove, in maniera tale che non nascondiamo niente. Il sistema funziona, ovviamente più il tempo passa meglio il sistema va. Sto predisponendo la circolare numero 3, riguarda appunto la ulteriore precisazione del regime sanzionatorio. Cioè, uno, non ci deve essere stato l'invio, ma questo non basta. Secondo è che il non invio sia dovuto a dolo o colpa. Ricordate l'iniziativa del ministro dell'istruzione Gelmini che vuole introdurre la valutazione del lavoro degli insegnanti nelle scuole? Ecco, sentite come sta andando l'inizio di questa sperimentazione. L'idea era quella di valutare alcune scuole nel loro complesso per poter assegnare un premio fino a 70.000 euro e valutare gli insegnanti di alcuni istituti per poter dare loro una mensilità in più. Il termine ufficialmente scade lunedì, dopo uno slittamento e la richiesta a scuole di più città di aderire. Ma solo alcune scuole di Siracusa e Napoli avrebbero aderito al progetto. No compatto invece dal centro-nord. Alessandra Cenerini, presidente dell'Associazione Docenti Italiani, secondo la quale i nostri prof non hanno paura di essere giudicati, ma in questa sperimentazione non sono stati fissati criteri necessari. Che cosa valutiamo? Voglio dire, che cosa devono sapere e saper fare gli insegnanti? Esistono negli altri paesi i cosiddetti standard professionali, cioè un quadro di riferimento delle competenze che deve avere un insegnante. Dopodiché, se la finalità è comunque uno sviluppo di carriera, non può assolutamente essere una valutazione fatta soltanto dall'interno. Dunque, secondo gli insegnanti, vanno rivisti i criteri di valutazione, anche se per alcuni presidi sarebbe stato un modo comunque per cominciare a parlare di merito anche nella scuola. Anna Maria Endinimeo, preside dell'ITIS Feltrinelli di Milano, che ha detto no alla sperimentazione. Io personalmente sono convintissima che la valutazione sia una parte essenziale di qualunque processo. Non si deve avere paura della valutazione, è meglio essere valutati che giudicati, nel senso che poi la scuola è sempre sul banco degli imputati. Però mi rendo conto che ci sia da parte degli insegnanti un certo timore. Ci sono moltissimi insegnanti che al solo sentirne parlare reagiscono in maniera negativa. Quindi per lei è un po' un'occasione mancata anche per la sua scuola? Il problema è che secondo me bisognerebbe andare in questa direzione, e se quello che potrebbe spingere gli insegnanti potrebbe essere la valutazione dei dirigenti, cominciamo noi. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Alcuni la conoscono come la festa di primavera, per altri è semplicemente il capodanno cinese. Fatto sta che la Cina entra nell'anno del coniglio festeggiando proprio a partire da questa notte, 3 febbraio 2011. Quindi è quello. Buona festa di primavera. È con questo augurio che da questa notte, nel 2011, la data cade il 3 febbraio, i cinesi celebrano il Capodanno lunare, meglio noto come festa di primavera, una delle più importanti festività tradizionali cinesi, momento di celebrazione per il loro calendario dell'inizio del nuovo anno. Oltre che in Cina, la festività viene celebrata dalle innumerevoli comunità cinesi sparse in tutto il mondo e in molti paesi dell'Estremo Oriente. A partire da questo 3 febbraio, le festività vanno avanti per 15 giorni e si concludono con la tradizionale festa delle lanterne. Quest'anno la Cina entra nell'anno del coniglio, quarto dei 12 segni cui la tigre cede il passo. La docente di lingua cinese, rappresentante dell'Associazione Italia-Cina a Roma, Jebei. Chi nasce nell'anno di coniglio è considerato una personalità buono, allegro, non è un segno molto come drago, come tigre, molto forte, un carattere abbastanza dolce. Tanti festeggiamenti delle numerose comunità cinesi anche in Italia, dove la ricorrenza quest'anno ha assunto un'ulteriore importanza in quanto si inserisce all'interno del calendario di eventi dell'anno culturale della Cina. A Roma per il 6 febbraio è infatti in programma la festa più importante, la danza del drago, a partire dalle 13 a Piazza del Popolo e per tutto il resto della giornata con costumi tradizionali. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In chiusura un aggiornamento sulla notizia di cui siamo occupati anche nella prima parte di GR24 sul caso Ruby. Ebbene, la richiesta di giudizio immediato per il Premier sarà inviata al giudice verosimilmente lunedì o martedì, era forse attesa già in questa settimana. Invece così ha detto poco fa il procuratore della Repubblica di Milano, Edmondo Bruti, liberato in relazione appunto alla richiesta di processo per Silvio Berlusconi, indagato per concussione e prostituzione minorile nel cosiddetto caso Ruby. Sono le 13.27, è tutto per questa edizione di GR24. Alessio Maurizio in studio, Pietro Lacorte in regia. Vi augurano buona giornata. Vi lasciamo prima l'aggiornamento delle borse, poi a Italia in controluce e a America 24. Buona giornata. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.